Buonasera, buonasera a tutti, le 20 e pochi minuti qui a Radio 5.9, giovedì 25 gennaio e come ogni giovedì è arrivato l'appuntamento con il Basket Minors. Io sono Matteo Facchini e per un'oretta circa sarò con voi a raccontarvi, qualsiasi cosa, voglio dire, non è che ci poniamo dei limiti. Tendenzialmente starei nei binari della pallacanestro, tra Lombardia ed Emilia-Romagna o, se preferite, tra le province di Mantova e Modena, ma nulla ci vieta scorribande, improvvisazioni e variazioni sul tema, ecco, per dirla musicalmente. Puntata, come detto, numero 17 di Solo Rete. 17, mi raccomando, si astengano gli scaramantici, non fatevi influenzare da queste cose, dal malocchio o dalla sfortuna. Per carità, leggete, studiate, lasciate stare i tarocchi e la magia, che siamo nel 2018 inoltrato. Le carte, certo, leggetele solo se dovete fare una partita a briscola, mi pare evidente. Bene, direi che siamo partiti abbastanza carichi, mi pare. Adesso è il tempo della nostra sigla e poi andremo senz'altro a incominciare. Eccoci rientrati dopo la nostra sigla, che dovrebbe essere stata sufficientemente corta per impedire a chiunque di voi di scappare, quindi tendenzialmente dovreste essere ancora dall'altra parte della radio, del computer, dello stereo, dell'automobile, nel caso ci stiate seguendo attraverso l'app o il CarPlay o qualsiasi altra diavoleria tecnologica. Puntata numero 17 di Solo Rete dice: ma stasera di che cosa vi occuperete? Ma potrei dire di cucina, di cucito, invece ci occuperemo di pallacanestro. Andremo a vedere che cosa succederà, anzi, in ordine cronologico, cosa è successo lo scorso weekend sportivo alle due squadre che noi seguiamo da vicino, cioè i modenesi della nuova PSA Modena e i mantovani del basket sustinente, sto parlando di girone unico della Serie C Gold Emilia Romagna e di girone C della Serie C Silver Lombardia. Vedremo come si sono comportate queste due squadre allo scorso turno e andremo a vedere soprattutto, in ottica anteprima, cosa riserva il calendario per l'imminente weekend sportivo. Lo faremo come sempre insieme a quattro ospiti, come è nostro costume, uso, consuetudine e anche un po' abitudine. Questa sera saranno con noi Davide Mantovani, il playmaker di Sustinente, un nuovo arrivo del mercato estivo della squadra di Mantova. Un altro gradito ritorno sarà quello di coach Danny Stellini, allenatore del Basket Viadana. È tornato a trovarci anche Marco Carretto, allenatore della Polisportiva Ponte Vecchio. E poi un nuovo arrivo, per la prima volta ai microfoni di Solo Rete, Giacomo Riccio, del pacchetto interni, e poi capirete il perché di questa precisazione, della PSA Modena. Ho fatto riferimento prima agli impegni sportivi di Sustinente e Modena per l'imminente weekend, adesso però è il momento di andare a vedere quando si giocherà e quale di queste partite potrete seguire qui su Radio 5.9. La risposta è quasi entrambe. Dice perché quasi? Si parte sabato sera alle 20.30 con Sustinente Viadana, derby che copriremo integralmente con radiocronaca diretta dal palazzetto dello sport di Via Manzoni in Sustinente, ripeto, palla 2 alle 20.30. Domenica alle 18 Modena ospiterà il Ponte Vecchio, noi saremo in collegamento dalle palestre Ferraris in Modena per aggiornamenti in diretta su questa sfida. Benissimo, io direi che ho letto il sommario, ho presentato gli ospiti, ho dato lettura e anticipato quali saranno le nostre dirette sportive, basta, ci salutiamo qui, no? E invece no, adesso ci separiamo giusto il tempo di una canzone, una manciata di minuti, voi restate qui su Radio 5.9 perché al rientro inizieremo a centrifugare basket sul serio. Restate con noi. I seen a lot of pretty faces, ain't nobody like you. And I never had a love like the one we knew. Tell me why I had to play the clown, always messing around. I can't stop thinking how I let you down, down, down. She's on my mind, she's on my mind. Till I was on my own. I've been drinking, but the truth won't drown. No, the truth won't drown. Bad medicine won't go down, down, down. She's on my mind. She's on my mind. Can't stop thinking, am I even on your mind? Now the nights are cold, I miss you on my shoulder, miss your hair on my cheek every night. She's on my mind, she's on my mind, she's on my mind. Rieccoci qui a Solo Rete, adesso è il momento di concentrarsi sulla pallacanestro della Serie C Silver Lombardia e dunque Sustinente. A Sustinente si è goduto, si è gioito lo scorso weekend sportivo. La squadra ha vinto 90-76 in trasferta in terra bergamasca sul campo della XXL Blu Orobica. Una partita, un esito, ecco questo 90-76 in trasferta che tutto sommato e sinceramente non mi stupisce. A volte quando si presentano le sfide si tende ad essere un attimino prudenti, diplomatici, morbidi. Ecco, è chiaro che parlare di gara facile o gara dall'esito scontato rischia di essere una mancanza di rispetto verso un team, verso una squadra, verso una società. Credo che questo rischio non si configuri se uno parla di valori comunque oggettivamente sbilanciati verso una formazione. Il percorso della Blu Orobica d'altronde è sotto gli occhi di tutti, ha conquistato finora solamente 6 punti in classifica, veniva da una sconfitta prima della partita contro Sustinente in trasferta sul campo del Lumezzane. A chiudere invece il girone d'andata era arrivata una vittoria sul campo della Virtus Brescia, ma prima di ritrovare un altro referto rosa, peraltro contro Quistello, quindi uno scalpo interessante, ecco lì nel mezzo tra queste due vittorie stanno 8 sconfitte che comunque sono quantomeno indici di una squadra in difficoltà. Ecco, questo possiamo dirlo, possiamo parlare di una Blu Orobica in difficoltà. Continuiamo invece a dare un'occhiata ai risultati dello scorso turno, perché hai visto mai che ci sia qualcosa di interessante? Partiamo da Quistello, che vince in trasferta a Sarezzo 64-54, ribaltando la differenza canestri dell'andata. Nella prima sfida infatti Quistello aveva perso 51-48, quindi 3 punti. Non sono sorpreso che Quistello abbia portato a casa una gara a bassissimo punteggio, anzi questa è una delle circostanze più congeniali alla squadra di coach Gabrielli. Quello che invece sottolineerei come insolito riguarda i tabellini. Dunque, spulciando tra i marcatori della Negrini, vediamo come il top scorer, con 16 punti tra l'altro, non sia tra i soliti noti, e cioè uno tra Cuzzani, Mancin, Mantovani e Mauceri, che viaggiano mediamente in doppia cifra per punti, ma sia Salzano, il giovane esterno Matteo Salzano, classe 99, di scuola pallacanestro reggiana, come Mauceri del resto. Zampata dunque di Salzano in quel di Sarezzo, e per zampata non intendo un canestro o una singola giocata decisiva, anche perché quando vinci di 10 è leggermente assurdo parlare di canestro decisivo, canestro vincente, anche perché il massimo dei punti che si possono ottenere con un'azione sono 4, cioè una bomba dove subisci fallo, ti presenti lunette e confezioni il gioco da 4 punti. Quanto piuttosto faccio riferimento a un impatto sulla fase finale della gara, un impatto dal peso specifico davvero notevole, ho letto, tra penetrazioni e triple. Poi la difesa dei ragazzi di Cosi Gabrielli è stata come al solito discreta, e qui non dico discreta come quel giudizio che è stato buono e sufficiente, ma nel senso che ha mantenuto le distanze, come una persona, no? Quando dice ma che tipo è? Ma è una persona discreta, sa mantenere le distanze. Ecco, Quistello ha mantenuto i 10 punti di distanza da Sarezzo, conquistando il referto rosa e agganciando proprio la squadra di coach Morandi in classifica a quota 18 punti assieme a Lumezzane. Di più, proprio Lumezzane ha vinto, e così andiamo avanti con i risultati, 70-57 sul campo di Dalmine. E in questo terzetto a 18 punti, che copre i posti dal settimo al nono, in virtù della momentanea classifica avulsa, l'ordine è proprio questo: Sarezzo, Lumezzane e Quistello, con i mantovani che al momento sono fuori dai playoff. Però a chiudere il doppio scontro, perché nella gara d'andata Quistello ha perso in trasferta a Lumezzane 78-75. Le due squadre si incontreranno non nell'imminente turno, perché Quistello è attesa dal derby contro Asola, ma venerdì 2 febbraio alle ore 21:30. Beh, io se fossi un tifoso di Quistello tendenzialmente andrei a fare un giro al palazzetto, così, per non saperne né leggere né scrivere. Poi abbiamo Soresina che vince in casa 95-86 contro Bottanuco, come detto la vittoria di Lumezzane in quel di Dalmine. Verola Nuova, vittoria esterna 73-69 sul campo della Virtus Gorle, mai facile andare a vincere a Gorle. Seriana sta iniziando la propria ripresa, diciamo è un diesel, chiamalo diesel, nel senso che tutti comunque si aspettavano un buon campionato da parte di Seriana. La prima parte è stata deludente, almeno dal punto di vista della risposta a queste aspettative. Seriana è quart'ultima, sta arrancando a quota 14 punti assieme al Basket Home. Lo scorso turno ha vinto 83-60 proprio contro Home, quindi sta lanciando arpioni per cercare di risalire in tutti i modi possibili verso le zone un po' più nobili della classifica. Vince Asola sul campo della Virtus Brescia 82-64, come detto Sustinente sconfigge XXL 90-76. E poi l'ultimo risultato, lasciato ultimo non a caso ma per creare suspense, e c'è di che: Viadana vince 81-80 in casa propria contro la capolista Prevalle, una vittoria che, anche se tra le mura amiche, per usare un'altra di quelle espressioni che io odio, è comunque una vittoria a sorpresa. La capolista cade, mantiene però la vetta della classifica, quota 26 punti assieme a Soresina, segue Sustinente terza in solitaria con 22. Ma questo risultato, questo referto rosa per la squadra di coach Danny Stellini, lancia l'Ecology System proprio in volata verso il derby che si giocherà sabato sera. Proprio di derby noi andremo a parlare dopo una pausa musicale, e lo faremo nel modo più interessante possibile, cioè con le voci dei protagonisti. Restate lì. Song on so many different dials, 'cause I got more than a disciplined child. So when they see me, everybody barack, barack. Man, I'm like a young gun, fully black, barack. I cry tear, drops over the massive attack. I only make hits like I work with a racket and back. Look at my jacket and hat, so damn berserk, so down to earth. I'm bringing gravity back, adopted by the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell's all the sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hear you out. Eccoci rientrati, Solo Rete qui su Web Radio 5.9 assieme a Matteo Facchini, i videoblogger. Adesso la mia compagnia però passa in secondo o se non addirittura in terzo piano, perché è il momento di parlare di derby. Sabato sera alle 20.30 con Radio Cronaca in diretta proprio qui su Web Radio 5.9, Viarana, come dicevo, lanciata dalla vittoria roboante pur in casa ma contro la capolista Prevalle, si appresta alla trasferta verso Sustinente. Si tratta senza dubbio di uno scontro fra due squadre che sono in un innegabile stato di forma. Sustinente viene da due vittorie consecutive, come detto, contro XXL e prima contro Dalmine. La partita precedente, quella che cioè ha chiuso il girone d'andata, è stata una sconfitta esterna a Cremona, in terra cremonese quantomeno, sul campo di Soresina, un campo dove non deve essere considerata un'eresia perdere. Al di là di questo, lo abbiamo detto tantissime volte, Sustinente è una squadra che ama correre in velocità, quando ci riesce, soprattutto in casa, sa essere pericolosa, se non pericolosissima, se non letale. Dall'altra parte arriva una Viadana che, sempre parlando di dati oggettivi, è la squadra più in forma del campionato. 6 vittorie consecutive come nessuna al momento. Dando un'occhiata ai numeri dell'attacco, posso solamente dire, ma questo non debba far squillare eccessivi campanelli d'allarme in quelli di Sustinente, però Viadana ha il miglior attacco del campionato nelle ultime 6 partite, 81,8 segnati di media. Ha il miglior attacco in trasferta, cioè ogni volta che va a giocare fuori casa è la squadra che in campionato segna di più, mediamente. In questo momento sono 78,6 punti. Sì, magari attaccarsi ai numeri può essere interessante e carino per presentare una sfida, però intanto sono dati oggettivi. E poi, detto questo, direi che adesso ci possiamo andare ad ascoltare le parole di coach Dennis Stellini, allenatore proprio di Viadana, e sentiremo anche come avrà risposto a questi numeri, solleticato sulle curiosità statistiche. Sentiamo il coach. Yeah. È tornato a trovarci qui a Solo Rete Danny Stellini, allenatore dell'Ecology System Viadana. Buonasera coach e ben ritrovato. Buonasera a voi, ciao a tutti. Dunque, l'ultimo turno di campionato merita di essere trattato a parte, quindi mettiamo per un attimo in frigorifero la partita con Prevalle perché ci andremo tra poco. Prima coach, vorrei dare uno sguardo da fuori al cammino sin qui della sua squadra e una cosa che salta subito all'occhio è lo stacco netto in termini di rendimento, direi da fine novembre, primissimi di dicembre in poi, cioè dopo le due sconfitte a Soresina e Conquistello. Lei ha più volte parlato di una squadra in cerca di identità. Io le chiedo se è superficiale cercare di individuare proprio in quel momento il confine tra un prima e un dopo nella ricerca di identità di Viadana. Giustamente è stato lo spartiacque, quello che dicevi tu, quelle due sconfitte. Soresina è stata una sconfitta comunque tra virgolette meritata, perché Soresina a livello di qualità di gioco espresso in quella partita e in quel momento erano probabilmente superiori a noi e abbiamo perso fuori casa, una sconfitta insomma, che ci stava, meritata. Abbiamo toccato il fondo invece con Quistello. Infatti io prima della partita facevo due chiacchiere con l'allenatore, con Gabriele di Quistello, dicendogli proprio che era eclatante il momento strano di questi alti e bassi nella stessa partita, e lì penso proprio che abbiamo fatto la prestazione peggiore della stagione, toccando proprio il fondo, giocando proprio in maniera molto slegata, giocando ad intervalli regolari, momenti buoni a momenti veramente scandalosi di gioco, e abbiamo perso anche quella meritatamente, perché non avevamo né l'idea di come vincere la partita né probabilmente la testa per poterla vincere. E da lì forse inconsciamente abbiamo toccato tasti abbastanza forti sui ragazzi, capendo, volevamo capire io e la società e lo staff, insomma, se poteva essere quello il nostro cammino, perché se era quello probabilmente avevamo sbagliato tutto quanto. E probabilmente parlando singolarmente con i ragazzi abbiamo anche capito dove dovevamo andare a lavorare in maniera un po' più analitica, un po' più profonda, e credo che non sia stato solo quello. Credo che probabilmente i ragazzi, avendo poi rivisto la partita, avendo capito gli errori fatti e probabilmente il momento così negativo, si poteva solo migliorare. Da lì abbiamo cominciato insomma probabilmente anche a livello mentale a capire, e poi le vittorie che sono venute dopo probabilmente hanno dato anche un livello di autostima migliore probabilmente, e ha dato forza per continuare insomma questo percorso. Poi se sei partite consecutive forse non ci avrebbe creduto quasi nessuno. In realtà abbiamo aumentato, abbiamo scalato di volta in volta prestazioni forse non brillantissime, però abbiamo fatto meno errori, ecco, quello senz'altro. Quindi in coda a questa striscia, almeno, e qui veniamo alla sfida dell'ultimo turno con Prevalle, quindi ripeto, dal punto di vista di quella partita voi venivate da 5 vittorie consecutive, quindi quale momento migliore, incontrate la capolista, vittoria, lo ricordiamo, 81-80. Coach, io le chiedo se è stata il tipo di partita che lei si attendeva, che voleva, e che cosa ha fatto la differenza? Ma in settimana abbiamo continuato a far presente alla squadra, io e il mio vice, che comunque non avevamo nulla da perdere, perché era evidente che comunque Prevalle, se è lassù, è perché comunque ha qualità per poterci essere. Pertanto abbiamo toccato questo tasto, cioè nel senso alleniamoci in modo il più possibile per avere diciamo tutte le carte in regole per affrontare la prima della classe, e non dobbiamo rinunciare a nulla, cioè dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo in questo momento. Se poi perdiamo con la prima in classifica, sicuramente nessuno potrà recriminare se diamo tutto in campo. E probabilmente il fatto di non aver nulla da perdere ha creato questa serenità, questa libertà nel gioco e meno pressioni, e quando si hanno meno pressioni probabilmente si riesce anche ad essere un po' più collegati, un po' più concentrati su quello che si sta facendo, perché comunque non dimentichiamoci che poi quando la palla è pesante, in più la pressione psicologica di dover vincere assolutamente la partita, magari ti crea anche qualche difficoltà e gli errori poi magari aumentano. Invece questa cosa qua probabilmente ha dato serenità ed è maturata una vittoria, senza dimenticare il fatto che è stata poi una partita comunque molto combattuta, molto serrata come punteggio, sempre lì sopra sotto, ed è venuta fuori una vittoria di collettivo, perché comunque non abbiamo, la cosa importante da evidenziare è che noi non abbiamo mai rinunciato a giocare, non abbiamo mai mollato anche in momenti dove subivamo break, cosa che invece nei mesi scorsi erano, diciamo, mazzate che ci arrivavano e lì cadevamo per terra e dunque perdevamo le partite. E poi dopo, insomma, sono partite che sono molto combattute, pertanto un episodio ha decretato il vincitore della gara. Tutto qui, abbiamo provato a stare nella partita e ci siamo rimasti fino in fondo, poi anche, diciamo, tra virgolette, poi la fortuna ci ha aiutato a vincere la partita di un punto. Ora, coach, adesso le propongo un paio di dati e poi le chiederò un flash su qualcosa che riguarda la sua filosofia cestistica. Premetto i dati perché lei sa che qui noi a Solo Rete siamo anche un po' malati mentalmente, nel senso che sarà pure una serie C Silver, una serie C2, ma noi cerchiamo di andare a trovare dei dati e da questi di ricavarne altri in termini di statistica. Così, ripeto, per trovare anche un po' alcuni percorsi, alcuni spunti interessanti. Uno riguarda... Sì, possono servire anche a noi, esatto, detti da voi, interessante, assolutamente sì. Esatto, quindi voi sfruttate la nostra malattia mentale, perfetto, esatto. Ne prendiamo atto. No, dicevo, uno spunto interessante è quello che riguarda in questo momento, in generale, ma soprattutto in questo momento, l'attacco di Viadana. Dunque Viadana ha il miglior attacco in trasferta, 78.6 i punti segnati, mentre in generale sono 74.5, e soprattutto nelle ultime partite, visto che a questa striscia, a questo pacchetto abbiamo fatto riferimento fino a poco fa, Viadana segna 81.8, fa poco peggio Blu Orobica con 79.8, però ne subisce 90.7, e infatti ha vinto solamente una delle ultime 6 partite. Ora, io intanto le chiedo se e quanto lei è d'accordo con l'adagio secondo cui i campionati si vincono con la difesa, e poi se questi dati che le ho detto sul suo attacco la fanno un attimino sogghignare. Allora, sono d'accordo che si vincono con la difesa, e se mi credi stiamo lavorando tanto per quello, perché siamo una squadra che purtroppo ancora prende tanti canestri, concediamo troppi punti agli avversari. E poi c'è da dire che invece dall'altra parte del campo siamo migliorati, abbiamo tenuto un trend molto buono a livello di punti di realizzazione, e dunque questo dato è confortante per certi aspetti, ma non è confortante in modo globale, nel senso che comunque, come dicevi tu, alla fine farne tanti e concederne altrettanti può essere un problema, però ci dà una sorta di sicurezza pensare che in trasferta riusciamo a segnare questi punti. Se noi avessimo la concretezza di provare a prenderne un po' meno, saremmo una squadra ancora più, diciamo, pericolosa di quello che stiamo facendo in questo momento. Coach, veniamo adesso alla partita, al prossimo impegno, quello di sabato sera alle 20.30, sarete in trasferta sul campo di Sustinente, partita che ricordo trasmetteremo in diretta qui su Radio 5.9. Lei ha fatto riferimento, coach, in un'intervista prima della partita con Prevalle, le ha detto: non siamo ancora una squadra di prima fascia, stiamo lavorando in quella prospettiva. La classifica però sta raccontando che in questa prossima sfida si sfidano appunto due squadre di fascia alta. Lei cosa si aspetta da questa sfida contro Sustinente? Ma intanto mi aspetto di una prestazione simile a quella che abbiamo fatto con Prevalle, nel senso di rimanere vicino agli avversari, di rimanere in partita. noi affrontare Sustinente in casa loro è sicuramente complicato, perché Sustinente credo che sia una delle squadre candidate a fare i playoff e candidate a un salto di categoria a fine stagione, perché sono attrezzate, perché sono riuscite a fare una campagna estiva importante, perché hanno secondo me un allenatore preparato, un ex giocatore di categoria, pertanto conosce molto bene le dinamiche dello spogliatoio, cose molto importanti per allenare a livello globale una squadra. Mi aspetto una partita dove noi dobbiamo, come dicevo prima, cercare di stare aggrappati alla gara. Poi fuori casa, sicuramente in un campo difficile come quello, saranno senz'altro ancora gli episodi a determinare il risultato finale. Logicamente bisogna essere bravi a fare prestazioni importanti, perché bisogna avere qualità di gioco e riprovare ad essere bravi come siamo stati. Poi è sempre molto difficile pensare di rifare le stesse partite, perché per mille motivi le gare sono utili a sé. Speriamo di riproporre il gioco offensivo che abbiamo creato con Prevalle, ma dobbiamo stare attenti molto in difesa, perché lì forse è il nostro punto debole, ecco. Perfetto, noi ringraziamo coach Danny Stellini, che ritroveremo sabato sera per le video interviste nel post partita, ma per il momento, coach, grazie per essere stato ancora con noi e in bocca al lupo per la partita di sabato. Grazie a voi, grazie dei tanti, molto interessanti. Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this, tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up on the run, let's make love. Make it up, fall in love, twice. But you'll never be alone. I've been with you from dusk till dawn. I've been with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll hold you when things go wrong. I've been with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Like a jacket, so do yours, yeah. We would roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise. Since just me and you, light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love, try. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. Go give love to your body. Eccoci rientrati qui a Solo Rete. Prima della pausa musicale avete sentito le parole dell'allenatore di Viadana, Denis Stellini. Adesso spostiamoci di prospettiva, restiamo nell'interessantissima atmosfera del derby, però andiamo adesso in casa sostenente. È tornato a trovarci Davide Mantovani, il playmaker dei Falchi. Con lui abbiamo fatto un'interessante chiacchierata, partendo ovviamente dall'ultima sfida, quella contro la XXL Bergamo, anche perché c'era la curiosità di andare a vedere come si sia comportato quello che a tutti gli effetti è un nuovo compagno di squadra di Davide Mantovani e un suo compagno di reparto fino a prova contraria. Sto parlando naturalmente del neoacquisto di Sustinente Nikola Filic, un playmaker di origini croate, classe 1997, ha disputato un po' di allenamenti a Sustinente, poi uno scrimmage in quel di Modena proprio contro la PSA. E la prima partita ufficiale è stata la trasferta in terra bergamasca sul campo dell'XXL. Di questo e di molto altro, naturalmente di derby, abbiamo parlato con Davide Mantovani. Andiamo a sentire però le parole del playmaker di Sustinente. È tornato a trovarci Davide Mantovani, playmaker del basket Sustinente. Ciao Davide, bentornato qui a Solo Rete. Ciao, buonasera a tutti. Allora Davide, iniziamo con ordine e quindi facendo un passo indietro, dando un'occhiata cioè al vostro ultimo impegno. Dunque, sulla carta la trasferta in casa della XXL Blu Robica non era di quelle che facciano perdere il sonno, vista la loro posizione in classifica, ma sappiamo bene che la carta, ecco, può avere tanti utilizzi, ad esempio può essere igienica, e quindi insomma ci siamo capiti, e di conseguenza le partite è sempre meglio approcciarle, soprattutto dal punto di vista mentale, in maniera umile e stando sul pezzo, come si dice in gergo. La partita è terminata 90-76 per voi, quindi un buon più 14. Loro avevano un buon attacco dal punto di vista della media punti segnati nelle ultime partite. Il problema è che ne subivano più o meno 90 di media, guarda caso Sustinente ne ha segnati 90, ed ecco dove è andato a finire il referto rosa. Al di là di questo, che tipo di gara è stata e quali sono stati i punti, le fasi della partita che hanno determinato l'esito secondo te? Dal mio punto di vista, perché giocavamo contro una compagine che sulla carta è in classifica, è penultima in classifica, e quindi sembrerebbe una partita facile, ma in realtà loro in casa sono una grandissima squadra, ci hanno messo in difficoltà in più occasioni, infatti non siamo mai riusciti a dare lo strappo per ammazzare la partita giocare sul velluto. Siamo sempre stati lì, loro hanno delle buonissime individualità, playmaker, dal mio punto di vista uno dei migliori che si possono trovare in questa categoria, un lungo molto esperto e anche dei buoni giovani, perché erano tutti molto atletici, spingevano il contropiede. La cosa che ci ha fatto, secondo me, vincere questa partita, vabbè, è stata l'attenzione nella seconda parte della gara, perché a differenza della prima parte che facevamo un po' troppi buchi nella nostra difesa, l'attenzione, ovviamente i tagliafuori che per noi sono fondamentali perché ci permettono di correre in contropiede, recuperare rimbalzi, correre in contropiede, e ovviamente la loro difesa che era molto allegra, ecco, diciamo, avevamo molte possibilità di giocare, ecco, non erano molto aggressivi. Allora Davide, arrivati a questo punto del campionato, cioè due partite dopo la boa, dopo il girone d'andata, diciamo che quasi totalmente l'identità delle squadre è quella. Io ti chiedo, guardando non il bicchiere mezzo vuoto, ecco, ma andando a vedere quelle che sono le cose su cui occorre migliorarsi, perché bisogna sempre farlo, quali sono le cose macroscopiche sulle quali state lavorando o quelli che tu individui essere gli errori in cui ogni tanto Sustinente tende a ricadere? Ma Dio, così su due piedi, penso alle amnesie difensive che ogni tanto ci capita avere, quindi dei parziali, prendiamo dei parziali che ci a volte ci fanno far fatica nel recupero dei punti, e ogni tanto perdiamo la testa, facciamo azioni solitarie che ovviamente scaturiscono in palle perse, rimbalzi e contropiedi avversari. Stiamo cercando di migliorare sempre di più la difesa, mettendo sempre più aggressività, e una cosa che mi piace molto e dove siamo migliorati molto sono i rimbalzi difensivi, che in queste ultime partite ci hanno permesso di correre e di fare contropiedi come piace a noi, come la nostra identità di squadra. Particolari problemi non ne vedo, perché insomma l'aggressività ce l'abbiamo, la voglia di vincere ce l'abbiamo, non per altro insomma siamo in questa zona di classifica per niente, ecco. Esatto, terzi a 22 punti, terzi da soli tra l'altro. Dico da soli perché c'è una situazione di equilibrio dalla parte alta fino a quella medio-bassa della classifica, ma sulla quale andremo tra un attimo. Prima tu hai fatto riferimento al playmaker della XXL, quello è il tuo ruolo. Sì. Sai che io non vado su espressioni tipo il metronomo della squadra, no, queste cose qui sai che le rifuggo, però è una notizia che ormai non è più una notizia, è un dato di fatto, è un vostro compagno, ecco, più che una notizia, un giocatore nuovo sostenente, Nicola Filic, che gioca, dovrebbe giocare nel tuo ruolo, cioè verrebbe da pensare che sarà il tuo cambio naturale, cioè il cambio del playmaker titolare. Ora, visto che avete giocato una partita, anche se lui ha giocato poco, avete fatto lo scrimmage a Modena contro la PSA, e comunque il ragazzo aveva già fatto un periodo, almeno dal punto di vista degli allenamenti, lì a sostenente, io ti chiedo se tatticamente tu te la senti anche di sbilanciarti su quali potrebbero essere le configurazioni che ci si può aspettare. Ad esempio, abbiamo visto Della Chiesa delle volte giocare anche con i tre piccoli, cioè se il fatto che Phyllis possa fare il playmaker ti sposta, e non lo dico in termini né positivi né negativi, solamente come ruolo, a giocare un po' più da guardia, come ad esempio succede quando è in campo Ghidoli e porta lui palla, cioè quali possono essere, così a grandi linee, le configurazioni? Addio, allora, senz'altro è un valore aggiunto, perché anche negli allenamenti è veramente, cioè si vede che è un buon giocatore, nonostante l'età, perché adesso non mi ricordo, su 96 o 97, quindi cioè ancora abbastanza giovane. 97. Però, Dio, è difficile capire il coach, perché lui ogni tanto ha delle molte idee che gli balenano per la testa, quindi mettergli la pulce nell'orecchio è difficile, ecco. A me piace anche giocare da guardia, perché insomma anche quando ero l'anno scorso ancora mi è capitato di fare qualche azione, qualche partita da guardia, insomma non mi dispiace. Sicuramente in questa parte di campionato è una buona cosa avere un playmaker in più, uno che gestisce la squadra in più, anche quando le energie mentali, perché adesso parliamo di energie mentali, e comincia anche il fisico verso marzo ad avere qualche problema, è un valore aggiunto, ci dà una mano sicuramente. Assolutamente. Aggiunge freschezza, ecco. Certo. Arriviamo alla presentazione adesso del derby con Viadana. È chiaro che ci sono diversi spunti per poter inquadrare questa sfida. Sicuramente il fatto che siate così a contatto in classifica, ricordo, lo dicevamo prima, in 4 punti, cioè da voi a 22, a Lumezzane a 18, sono 7 le squadre. Si va dal vostro terzo posto al nono appunto di Lumezzane. Quindi passiamo dalla zona alta della classifica a già la zona salvezza diretta, ecco. Questo fa subito pensare a un'ipotetica situazione di parità proiettata alla fine del campionato, ed ecco che quel meno 5 subito nella sconfitta all'andata diventa un fattore chiave. Ora, è chiaro che parlare di differenza canestri ribaltata presuppone una vittoria, quindi sto facendo i conti non senza l'oste ma senza Viadana, ecco. Ma al di là di questo, voi come state arrivando a questa sfida e soprattutto come la inquadri tu tatticamente? Molto complicata, soprattutto per quanto riguarda la preparazione mentale, più che quella su giochi avversari o che so io. È veramente tosta, perché Viadana è una squadra ti fa tenere il punteggio basso, mette molta pressione, quindi bisogna stare attenti soprattutto in queste partite. Certo che noi giochiamo in casa, quindi magari abbiamo il fattore campo dalla nostra, però questo vuol dire tutto e vuol dire niente, cioè noi abbiamo bisogno di partire concentrati da subito, esprimere il nostro gioco come meglio riusciamo, cercare di fare più contropiedi possibile e caricare di falli i lunghi avversari che sono molto tosti. Benissimo, noi ringraziamo Davide Mantovani, play del Sustinente. Ricordo che l'appuntamento con il derby è per sabato sera alle 20.30, partita che tra l'altro trasmetteremo in Radio Cronaca diretta qui su Radio 5.9. Intanto grazie Davide per essere stato ancora in nostra compagnia, ma poi soprattutto in bocca al lupo per il derby. Grazie a te, Crepi. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... You're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... Rieccoci insieme qui a Solo Rete su Radio 5.9. Prima della break musicale abbiamo sentito le parole di Davide Mantovani, playmaker del Sustinente, e fra i giocatori che sono arrivati in terra mantovana nel mercato estivo Ricordo la diretta del derby sustinente Via Dana sabato sera alle ore 20:30 e in diretta qui su Radio 5.9. L'altra partita che io mi permetto di segnare idealmente in rosso sul calendario e non sullo schermo del computer, perché non sono ancora rincretinito del tutto, è l'altro derby mantovano, quello cioè tra Asola e la Pallacanestro Quistello. Chiudiamo adesso la pratica dedicata alla Serie C Silver Lombarda, ci spostiamo in Emilia-Romagna, puntiamo il mirino sul girone unico della Serie C Gold, andando a vedere cosa è successo alla PSA Modena. I giallo-arancio erano di scena nell'ultimo turno a Castelnuovo, sconfitta 74-52, ma cosa ben più grave di quel meno 22 scritto sul referto giallo è l'infortunio occorso a Capitan Ghedini. Io ho rivisto le immagini, Ghedini ha subito uno sfondamento davanti alla propria panchina, vicino alla linea laterale, si è lasciato cadere all'indietro scivolando ed è andato a battere contro il cubo dei cambi con lo spigolo della struttura contro il proprio costato. Si parla di frattura, adesso si cercherà di capire quali saranno i tempi di recupero, i tempi di rientro del giocatore, a cui sicuramente va il nostro in bocca al lupo e i nostri auguri per un'ottima guarigione. Questa è purtroppo l'eredità con cui Modena è tornata da Castelnuovo, oltre al referto giallo, ma chiaramente l'esito sportivo della partita passa in secondo piano rispetto all'infortunio che sa tanto di tegola sulla testa di Modena in una situazione in cui la PSA non ne aveva bisogno. Cerchiamo quindi adesso di concentrarci sul momento sportivo della PSA Modena, andando a vedere anche quale sarà l'anteprima della prossima sfida, quella di domenica alle 18 in casa contro Pontevecchio. Sia della sfida con Castelnuovo sia dell'anteprima del prossimo turno ne parliamo adesso assieme a un nuovo giocatore di Modena che ci è venuto a trovare questa settimana. Sto parlando di Giacomo Riccio, lungo della PSA Modena. Sentiamo l'intervista al giocatore. Buonasera Giacomo Riccio, giocatore della nuova PSA Modena, e benvenuto qui a Solo Rete su Radio 5.9. Buonasera a tutti. Allora Giacomo, vado a presentarti così un attimino in un flash. Sei un classe 94, cresciuto nelle giovanili a Empoli. Lo scorso anno hai giocato la seconda parte di stagione alla Folgore Fucecchio, parliamo della Serie C Gold Toscana, e poi l'arrivo a Modena nell'ultimo mercato estivo. Allora, prima di parlare di partite e di risultati, parliamo di ruolo, chiarisco. Dunque, tu ti sei presentato in estate come un ala forte che sta lavorando per giocare da centro. Quindi intanto ti chiedo come sta proseguendo e come sta andando questo lavoro di adattamento. Stiamo facendo un grande lavoro la mattina con Stefano Michelini per farmi apprendere al massimo l'essenza del 5 e con anche l'aiuto di Fabio Spezzoli la sera durante gli allenamenti giocando 5 contro 5 mi aiutano, diciamo, a inserirmi più al centro dell'area, perché come ho già detto il secondo anno gioco da 5 e io sono un giocatore che per lo più prova a tirare dall'arco, prende punti e si tende a aprire. Sempre prendendo a prestito la tua scorsa stagione a Fucecchio, diciamo che quella era una buona squadra che rappresenta quello che di solito viene definito un mix tra gioventù e esperienza. Tu nel tuo ruolo avevi davanti un giocatore come Alessio Tessitori, che è sì un classe 87, quindi giocatore giovane, anche perché chi ti sta parlando è un 82, quindi non accetterei altro aggettivo che giovane per un 87. Però, dicevo, tra Serie B e Serie C1 lui ha fatto e continua a fare doppie cifre ovunque vada, quindi un po' più grandino invece è Maurizio Giusti, che di anni ne farà 46 tra un mese, e che lui si è fatto tutti i campionati della promozione alla Serie A con Livorno, anzi direi percorso inverso, lui che è di scuola cestistica proprio Libertas. Quindi mi pare di capire che quella fu una bella esperienza. Sì, mi hanno aiutato molto Tessitori come gioco da 5 e anche Maurizio come tecnica e come visione di gioco, mi hanno aiutato veramente molto, è stato davvero, anche se per poco, ma una bella esperienza giocare al fianco di loro. Vediamo adesso all'avventura con la PSA Modena, partendo dall'ultima partita, la trasferta a Castelnuovo Monti, sconfitta 74-52. Dal tuo punto di vista, Giacomo, qual è stato il momento in cui se ce n'è stato uno, perché magari non è detto che sia solamente, ecco, un episodio, le fasi in cui secondo te la partita è scivolata via? Ma secondo me non è stata una trasferta facile fin da subito, non siamo partiti bene e non abbiamo, soprattutto non siamo stati incisivi in difesa, e soprattutto in difesa su Isorio Cinque, Madonna, che ha fatto veramente una grande partita, ma noi non siamo riusciti neanche a limitarlo. E si è visto il risultato, si è visto il risultato. Poteva essere una partita abbordabile, abbordabilissima per noi, e ce la siamo fatta sfumare. Ti chiedo solamente un flash, Giacomo, su una cosa. Io ho visto le immagini dell'infortunio al capitano Aghedini. Infatti siamo stati anche limitati all'infortunio subito di Aghedini, che non è stata una buona stagione per lui, ricca di infortuni. Esatto, lui era rientrava proprio in quella trasferta contro Castelnuovo dal periodo di recupero dopo l'infortunio al pollice, e ti ripeto, io ho visto le immagini, lui ha preso uno sfondamento, è andato contro il cubo dei cambi e mi è sembrato quello il momento in cui ha preso la botta. Tu dal campo come l'hai vista? Ha fatto un mega scivolone e ci ha fatto preoccupare tanto. Poi stava bene, non ha finito la partita, però non sembrava nulla di grave, invece si è fratturato una costola e non è roba da poco, e non sappiamo neanche se ce la farà sbloccare. Ci dispiace molto, serviva tanto il suo aiuto, però ci viene ad aiutare lo stesso in allenamento, è sempre partecipe, non ci abbandona. Assolutamente, un grosso in bocca al lupo al capitano. Giacomo, i risultati, cioè dei referti rosa negli uffici di Modena ne sono arrivati pochi nell'ultimo periodo, così per usare un'espressione un attimino col sorriso sulle labbra. Dal punto di vista invece dell'evoluzione del gioco, quindi delle sensazioni, non solo in partita ma anche negli allenamenti, tu riesci a individuare un trend che si stia spostando verso il positivo? Due settimane ci stavamo allenando benissimo, poi la partita non è andata bene, ma abbiamo parlato e questi ultimi due allenamenti sono pensare molto positivo. Abbiamo fatto due allenamenti veramente, veramente grintosi, dimostrando, e spero che anche la partita dia i suoi frutti questi allenamenti. Allora Giacomo, in conclusione veniamo adesso all'anteprima della partita di domenica contro Ponte Vecchio. Al di là di strategie tattiche, perché poi la storia di una partita non credo che la si preveda, ma credo che vada gestita durante, nel mentre, io ti chiedo cosa sarà importante per Modena mentalmente e in termini di atteggiamento domenica? Secondo me l'unica cosa che dobbiamo fare, dobbiamo assolutamente non uscire dalla partita con un tempino di handicap, cosa che ci stiamo portando dietro da sempre. E dobbiamo riuscire a mantenere la concentrazione sempre, e avendo la panchina corta dobbiamo riuscire a gestirci meglio e a rimanere sempre in ritmo, sempre concentrati. Sicuramente non è una partita delle più difficili, ma se con il giusto atteggiamento riusciremo a portarla a casa. Perfetto, dunque l'appuntamento con questa sfida, come ricordavo prima, è per domenica alle 18 a Modena, alle Palestre Ferraris, PSA ospita il Ponte Vecchio. Noi ringraziamo Giacomo Riccio per essere stato insieme a noi qui a Solo Rete, e in bocca al lupo per la partita. Grazie, vi ringrazio anche a voi, vi aspettiamo numerosi. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. They can say whatever, I'ma do whatever. No pain is forever, yup, you know this. Tougher than a lion, ain't no need in trying. I live with a sky and, yup, you know this. Never lying. Tell her that Rihanna rain just won't let up. All black on, black town shades, black town Maybach. I'ma rock this shit like fashion, as in going till they say stop. And my runway never looked so clear, but the hottest bitch in heels right here. No fear. And why you getting your crap on? I'm getting my fly on. Sincere. I see you aiming at my pedestal. I better let you know. run my whole block like Obama them. But you ain't gotta believe me, go ask my mom and them. Couldn't even come in my room, smell like a look like me and two of my boys playing casino. Cali's all I keep in my bag, they California. Tell them give me back my swag, they try clone me. See my Louis Tucks, Louis flag, Louis frames, Louis belt. What that make me Louis May? I'm in the all white party wearing all black. With my new black watch called the heart attack. Cardiac arrest, cardiac arrest. Yeah, they say they hard, they ain't hard as this. Hard, the one word describes me. If I wasn't doing this, you know what I'd be too hard. Where them girls talking trash? Where they at? Where they at? Where they at? Where them bloggers at? Where them bloggers at? Where they at? Where they at? Where they at? Where your lighters at? Where your lighters at? Where they at? Where they at? Where they at? So hard, so hard, so hard, so hard, so hard, yeah, yeah, yeah, so hard, yeah, yeah, yeah, so hard. Abbiamo sentito prima del break musicale le parole di Giacomo Riccio, lungo della PSA Modena, ma con l'istinto della 4 dell'Alaforte, come abbiamo avuto modo di sentire dalla sua intervista. Adesso però è il momento di entrare nei meandri di questa sfida di domenica alle 18, Modena-Pontevecchio. Ricordo, noi saremo in diretta dalle palestre Ferraris qui su Radio 5.9 e vi aggiorneremo. Questa sfida ha dei precedenti interessanti. Beh, intanto è la 15ª fra le due franchigie, si direbbe se fossero squadre NBA, fra le due società. Pontevecchio conduce 8-6 e, come detto, domenica si scontreranno per la 15ª volta. Però fra i precedenti illustri ci sono gli ultimi tre dello scorso anno. Faccio riferimento alla serie di secondo turno play-out, cioè la circostanza, la situazione sportiva con cui Modena si salvò garantendosi il diritto di partecipare anche a questo campionato. Pontevecchio incappò in una retrocessione, poi ci fu il ripescaggio estivo, però la cosa interessante è che in quella serie non saltò mai il fattore campo. Vinse Modena gara 1 in casa, gara 3 in casa e perse gara 2 a Pontevecchio. In campionato, in regular season, la vittoria alla quarta giornata di ritorno, 12 febbraio 2017, Modena batte Pontevecchio 75-66. Signori, è l'ultima vittoria in regular season casalinga per Modena. Cioè, se togliamo quelle due partite di serie play-out, è dal 12 febbraio dell'anno scorso che Modena non vince in casa in campionato. Quindi Modena, che a prescindere da gare in casa o in trasferta in questo campionato non sta trovando soddisfazioni, vede arrivare una sorta di proprio totem, ecco, la squadra che ha battuto di più in casa nell'ultimo periodo. E io non vorrei essere in questo momento né nei panni di coach Fabio Spettoli né in quelli dell'allenatore di Pontevecchio Marco Carretto. Dice perché? Beh, non vorrei essere l'allenatore di Modena perché domenica arriva una squadra che nelle ultime tre partite, proprio lì alle Ferraris, è 0-3. E dall'altra parte non vorrei essere l'allenatore di una squadra, anzi della squadra che per prima eventualmente perderà una partita in questo campionato contro Modena. Quindi in ognuna delle due situazioni si verificherà una cosa particolarmente curiosa. Adesso però non divaghiamo e restiamo sulla sfida, andiamo ad ascoltare proprio le parole dell'allenatore della polisportiva Pontevecchio. Coach Marco Carretto ci racconta il momento della sua squadra e soprattutto come si avvicina alla sfida di domenica sera. Buonasera a Marco Carretto, allenatore del Basket Pontevecchio, e bentornato qui a Solo Rete. Buonasera, grazie per la chiamata. Allora coach, direi che torna nostro ospite in un momento positivo per Pontevecchio, e non faccio riferimento solamente alle ultime due vittorie, ma mi permetto di aggiungere anche il referto rosa conquistato in trasferta sul campo della Salus Bologna, la quale in casa ha la seconda miglior difesa del campionato. Tre vittorie nelle ultime quattro partite, di cui solo l'ultima giocata in casa, io direi niente male, ma ho il sospetto che i tifosi siano più interessati al suo bilancio di quest'ultimo periodo. Sì, diciamo che la squadra adesso ha cominciato un po' in tutti gli elementi a trovare equilibri che sicuramente l'anno scorso non c'erano, e sicurezze da parte anche individuale di tanti giocatori che l'anno scorso riuscivano ad esprimersi al meglio sempre, e questo senz'altro è stato motivo del crescendo che abbiamo avuto finora. E probabilmente anche qualche cosa, non voglio dire di feeling, magari con il mio modo di allenarli o quant'altro, ha portato al fatto che effettivamente abbiamo avuto un paio di imprese, tra cui quella della Salus, che proprio secondo me è anche dettato dal fatto della grande fiducia che hanno avuto i ragazzi anche in alcune proposte, che possono a volte chiaramente trovare anche grossi fallimenti e grossi successi, però chiaramente sono stati bravi a seguire. Comunque davvero la primissima motivazione è la crescita che c'è stata da parte loro individuale come consapevolezza, questo mi auguro che non sia un punto d'arrivo. Coach, per quel che riguarda la partita contro San Lazzaro, ribaltato l'esito, ribaltata la differenza canestri, perché all'andata avevate perso di 3, mentre in trasferta avete vinto di 5 punti, 80-75. Nell'ultima gara invece contro Bertinoro si tratta di una doppia vittoria, quindi il discorso differenza canestri non vale. Io le chiedo, coach, se la vittoria contro Bertinoro è stata la partita che lei si attendeva e che si aspettava. No, sinceramente come partita assolutamente sì, come risultato finale non è neanche veritiero, perché oggettivamente siamo arrivati punto a punto fino a un minuto e mezzo alla fine, poi è stata spaccata un po' da qualche giocatore individuale, qualche buon momento offensivo di un paio di giocatori in particolare, però sicuramente sono state entrambe partite molto difficili, anche perché siamo oggettivamente un po' corti per fare gare che ci permettono di aver massimo di respiro per riuscire a staccare presto, però senz'altro il fatto che siamo stati entrambi punto a punto, al di là del risultato finale contro Bertinoro, è un motivo in più per essere contenti, perché anche questo fa parte della crescita che secondo me devono provare a seguire i ragazzi che sono stati appunto bravi a tenere anche i nervi saldi nei momenti difficili. Partita di Bertinoro me l'aspettavo onestamente così, loro hanno un roster molto lungo, molto fisico e probabilmente non il più pericoloso a livello perimetrale, almeno così non si è rivelato con noi, e questo però ci ha portato veramente a fare anche una gara di sacrificio difensivo importante, e quindi direi che è da uscire con un grosso passione e senza però abbassare la guardia, perché noi non vuol poi dire niente, appunto, vista la formula di quest'anno, avere conti a favore, 2 punti in più a questo punto della stagione. Certo. Coach, guardando la fotografia della classifica, visto che stiamo andando in questa direzione, in quest'ottica, in questo momento vediamo una cosa interessante e che probabilmente si riproporrà anche a fine aprile. Ci sono 3 squadre, un gruppo comunque a pari punti, Montecchio, Castelguelfo e voi, e su questa fotografia a un certo punto, a una certa altezza, va tracciata una linea che è quella netta tra i playoff e i playout. In questo momento voi siete la prima delle ultime 6, dico ultime 6 per indicare il gruppo di playout, ma c'è da scommettere comunque che la situazione lì nel mezzo cambierà ancora. Lei cosa si aspetta, ma soprattutto a questo punto qual è l'obiettivo della squadra? Io purtroppo devo dirlo in maniera politica, come era stata la scorsa intervista, nel senso che siamo una squadra talmente incognita anche per se stessa, perché veramente per me abbiamo un buon potenziale, ancora tutto da sviluppare, e questo fa parte chiaramente della crescita del palestro, della crescita in partita, e quindi la mia speranza è che davvero i ragazzi diventino giocatori sempre più affidati in categoria, che diventino giocatori che danno sempre più sicurezza, però al momento siamo di quel gruppo lì la squadra meno affidabile a livello di risultato. Se oggi devo dire, abbiamo gli scontri a sfavore anche abbastanza nettamente con Castelguelfo, con Montecchio, abbiamo da fare trasferte comunque a LG Competition, che sarà un campo fortissimo, con una squadra che si è rinforzata, tutte le squadre meno male si sta rinforzando, da Guelfo con degli esposti a Modena, LD, Fidenza, quindi queste qui sono tutte partite che per noi, come siamo adesso, sono da vedere, da favoriti, però diciamo che ci stiamo un po' abituando a giocare ogni giorno, ogni settimana un'impresa, quindi ci sta dando un po' più di tranquillità il fatto di averne ottenuto un paio. Io credo che sia una classifica che veramente non si può vedere fino all'ultima giornata, perché fare un Carolina di Mazza, è complicatissimo, perché proprio io credo che le prime quattro squadre teoricamente non dovrebbero perdere punti con le squadre a seguire, ma qualche volta è successo, e sicuramente quelle di bassa classifica sono squadre fintamente di bassa classifica, perché Bertinoro che perde adesso è una squadra estremamente solida, con un giusto mix di esperienza e gioventù. Credo che Modena, con l'inserimento fatto, sia altrettanto una squadra che può vincere contro chiunque, almeno dell'otto delle squadre che giocano per il playoff, e quindi sarà veramente complicato arrivare in fondo con qualche certezza. E credo che davvero vincerà la classifica chi riesce poi a non guardarsi tanto. Bene, coach, io non so se lei sia o meno scaramantico, ecco, non me lo ricordo dalla nostra scorsa chiacchierata, ma... In genere no. Beh, a parte il fatto che le va di lusso, che questa sia radio e non televisione, quindi nessuno la vede, ma nel dubbio io adesso la prego di tenere le mani bene in vista mentre le dico quello che sto per dirle. Dunque, lei è da questa stagione capoallenatore di Pontevecchio, quindi l'anno scorso non era sulla panchina. La squadra è retrocessa, sul campo poi è arrivato il ripescaggio estivo. La serie di secondo turno, play-out, Pontevecchio l'ha persa proprio contro Modena 2-1. Però, se tralasciamo quella gara 1 e quella gara 3, sbuca fuori che l'ultima squadra a perdere a Modena in regular season è stata proprio Pontevecchio il 12 febbraio scorso, quindi manca poco al compleanno. Coach, non vorrà entrare nella storia della polisportiva dalla parte sbagliata domenica? No, purtroppo lo sto già sentendo da un pochino, e francamente mi sembra veramente di folli, perché Modena è soltanto una squadra che deve trovare degli equilibri, poi penso che sia una squadra che di roster non c'entra niente con quella parte della classifica, e quindi e noi realmente, e non per fare l'allenatore che piange, abbiamo degli equilibri sempre variabili, e quindi siamo sempre a dover cercare di partita in partita il modo giusto per affrontarla. Diciamo che se devo pensare di entrare nella storia polisportiva, una statua equestre fuori dalla palestra la vorrei tra l'altro sicuramente, e poi spero che sia comunque tra un po', e non credo veramente alla scaramantia. Sicuramente credo che la squadra sia molto più attrezzata di quello che realmente sta dimostrando. Conosco bene l'allenatore Fabio, spesso comunque tratto in corsa, che non è una cosa semplice, e sono certo che sta lavorando al meglio per trovare questi equilibri, quindi non avrà niente di più, niente di meno come tipo di approccio rispetto alla partita che abbiamo fatto con la Salus o rispetto alla partita che abbiamo fatto contro qualunque altra squadra. Per noi è fondamentale affrontarle veramente con l'umiltà giusta, senza il timore di nessuno, perché insomma le partite poi si devono giocare davvero dall'inizio alla fine con la tranquillità di poter giocare alla pari. Perfetto, dunque l'appuntamento con questa partita Modena che ospita Pontevecchio è per domenica alle ore 18 alle Palestre Ferraris. Ricordo che saremo in collegamento in diretta dal campo per aggiornamenti sulla sfida. Noi ringraziamo ancora l'allenatore Marco Carretto per essere stato con noi. Coach, in bocca al lupo per domenica. Crepi lupo e grazie molte. Erano le parole di coach Marco Carretto, allenatore della polisportiva Pontevecchio. Noi ti abbiamo presentato, anzi io, perché mi sembra fino a prova contraria di essere da solo. Poi sulla doppia personalità o sulla personalità multipla, in senso patologico naturalmente, se ne potrebbe parlare, faremo una puntata a parte. Vi ricordo, siamo in chiusura, le dirette sportive di questo weekend. Sabato sera, per quel che riguarda la C-Silver, alle 20.30 seguiremo in diretta il derby Sustinente Via Dana. Il giorno dopo, domenica, ma alle ore 18, saremo in diretta dalle palestre Ferraris di Modena per collegamenti e aggiornamenti sulla sfida Modena-Pontevecchio. Per questa puntata numero 17, ripeto 17, ma mi raccomando, lasciate perdere le carte, i tarocchi e quelle amenità, per non dire un'altra parola un po' più volgare. Solorete tornerà come sempre giovedì prossimo, pochi minuti dopo le 20. Per quel che riguarda invece le dirette sportive, noi torneremo a sentirci anche questo weekend. Vedo dalla vostra espressione che siete contenti, eh? Vabbè, pazienza. Scherzi a parte, grazie per essere stati con noi qui su Web Radio 5.9. Buon proseguimento di serata. 5.9.